Così me ne stavo senza aver pranzato davanti alla TV. Vitaccia, eh? Uff, vita da cane, che cazzo mi rimane? Annuso l'aria intorno e cerco prede da sbranare. Le vedo in tele, lascio da parte fede. Preda troppo semplice, facile sopraffare. Cambio canale, fra questa spazzatura entro in un telegiornale monotematico e banale. Volete che io mangi carne morta e il santo herdout? Lo voglio santificare. Non me ne frega niente perché ho fame. Le immagini mi danno carne viva da assaggiare. Ma forse poi già vecchia, carne di un cardinale. Cambia servizio, un banchetto fuori che appare. Lo cazzo andata magra e solamente conclave. Oggi va male, stasera non mi sfamo. Pensavo d'essere in Italia ma sbagliavo. Questo è lo Stato Vaticano. Ma per fortuna c'è qualcosa di immortale. Che muore pure il Papa ma il testosterone sale. Adesso sento già si forma l'acquolina. È carne fresca quel che annuso e odore di squaldrina. Ho messo Striscia che ballava la velina. Ho messo Striscia che ballava la velina. Ho messo Striscia che ballava. Ho messo Striscia che ballava la velina.